Was drauf bis 9. Ma, ha, ha, ha, yeah, acid one, io con i miei amici, ma, io con i miei amici, vai, esco di casa, ma è ormai sera, ma per me il giorno inizia adesso, dopo 8 ore a lavorare. Dopo 8 ore a lavorare, guido verso i miei amici. Qualche minuto di strada, poi che mi dici? Eccomi qua, ma sostanze non se n'ha. In questo caso, ora si vanno a cercare. Te quanto pigli? Ma per me un decino. Poi ci muoviamo verso qualche posto strano. E piglia bene con gli amici, e lo sai perché? Sono gli unici con cui posso parlare se c'è qualche cosa che non va. E mentre parliamo, intanto si scalda un po' di Batman. Senti qua rimpiango l'erba di Amsterdam. D'estate andiamo, che ne dici? Ma ora son qua con i miei amici, ah! Ora dopo ora e sera dopo sera si scaldano le vite con me. Le sostanze che purtroppo qui restano illegali, e chi vuole fumare può scarsi deve. Ora dopo ora e sera dopo sera si scaldano le vite con me. Le sostanze che purtroppo qui restano illegali, e chi vuole fumare può scarsi deve. Non c'è molto da sperare in un mondo così, ma almeno so di avere rime amici. Asduani, noi ci muoviamo sempre a buio, e lo sai perché? È l'unico momento che io ho per me ed i miei amici. Sempre in fame chimica cerchiamo porchettari e pastifici, yeah. Prima le paste erano più buone, torniamo in macchina che qui fa un freddo cane a bestemmie. Passiamo tante serate in questo mondo di puttane e di inculate. Restano le cicatrici, ma restano anche i miei amici. Restano le cicatrici, ma restano anche i miei amici. Me and my homies. Sono pochi, i più ti parlano alle spalle come sochi. Ma questo pezzo non è certo per loro, ma per tutti quelli di cui mi fido davvero. Per tutti quelli con cui io posso passare tutta una sera al freddo in macchina a chiacchierare. Con cui mi piglia bene, posso essere solo me. Con cui io ogni sera aspetto il weekend, perché è così che vaio con i miei amici. E attorno poche luci, ma tanti sacrifici da fare ogni giorno. Ma mi piglia meglio se i miei amici sono con me, io con i miei amici. Ma io con i miei amici, ah. Io con i miei amici, ma ora dopo ora e sera dopo sera si scaldano le vite con me. Le sostanze che purtroppo qui restano illegali, e chi vuole fumare in boscarsi deve. Ora dopo ora e sera dopo sera si scaldano le vite con me. Le sostanze che purtroppo qui restano illegali, e chi vuole fumare un po' scherzi deve. Io con i miei amici, ah, acid one, ma io con i miei amici, ah.